cazzo, zapapone! È un'ora che sta incollato davanti al mio PC! Lasciami in pace, Chris! Sto finendo di vedere i video del Dottor Clapis! Ehi, Dottor Clapis, sei una vera testa di cacchio! Come quella volta che hai costretto quei venditori di rose a ballare come un palumpa! Oompa, loompa, doompa-dee-doo. I've got another puzzle for you. Oppure come quella volta che hai scambiato quell'uomo di colore per il campanello. Ehi, utente medio, vieni qua, ora ti spiego il mio rimedio per quella brutta sensazione che hai di fondo per ogni volta che ti senti in collisione con il mondo. Io trovo nel mio gioco riparo da quel morbo che ti uccide poco a poco, che è la logica morale dettata dalla mente. Io la faccio collassare con un video irriverente, cercando di portare a compimento lo scopo per cui vivo il mio decondizionamento. Dottor Clap Clap Clap Clap Clapis. Dottor Clap Clap Clap Clap Clapis. Dottor Clap Clap Clap Clap Clapis. Sei una testa di cacchio. Clap Clap Clap Clap Clapis. Dottor Clap Clap Clap Clap Clapis. Dottor Clap Clap Clap Clap Clapis. Sei una testa di cacchio. Come quella volta che sei impazzito in chiesa. Oppure come quella volta che ti sei innamorato di quella vagina di plastica. Ehi, utente medio, sediti comodo, te lo rispiego. Cerco di uccidere, di parodizzare ogni singolo schema comportamentale impartito dalla nascita, che ti fa vivere da sempre come in una recita, senza fermarti mai ad osservare, senza fermarti mai per respirare. Allora, se deve avere un senso questa minchia di canzone, incominciamo. Ispirazione, espirazione. Ed è da questo che è incominciata la creazione. Dottor Clap Clap Clap Clap Clapis. Dottor Clap Clap Clap Clap Clapis. Dottor Clap Clap Clap Clap Clapis. Sei una testa di cacchio. Clap Clap Clap Clap Clapis. Dottor Clap Clap Clap Clap Clapis. Dottor Clap Clap Clap Clap Clapis. Sei una testa di cacchio. E per creare io ora sto da solo, attento di non perdere il contatto con il suolo. A volte ti evito perché la solitudine è cibo per lo spirito. Ed io sono un obeso e me lo merito. Medito per pagare un debito con il mio spirito trascurato ormai da un secolo. Mi sdraio sul divano e mangio un muffin. Poi l'ispirazione arriva e faccio un feat con Peter Griffin.